perso il vero amore, forse ho perso tutto, ho perso un sogno, o forse l'ho distrutto, volevamo soltanto qualcosa in più sognare, e poi il mondo l'ha tolto, inclinato il cuore, e tutto quanto, adesso, sembra un saluto all'anima, e in fondo mi sento perso, mi sento molto più diverso di prima, e continuo a sognare, continuo a volare, camminare. E in fondo continuo a planare le soluzioni che mi portano lontano dal cuore, perché ho paura di soffrire, ho paura di decidere di agire in un mondo in cui si possa ancora sognare. Non spero, e in fondo tutto quello che rimane è solo un mistero. La vita prima di tutto ci ha dato un cuore, prima di tutto ci ha dato una mente, ma in fondo ci ha tolto entrambi. In fondo quello che volevamo è avere anni pieni e meno inganni. In fondo volevamo soltanto capire cosa c'era di meno sbagliato. Ti voglio bene, è questo che riesco a dire. Il mio cuore è troppo ferito per continuare ad amare. Ti voglio bene, è questo che riesco a dire. Il cuore è troppo ferito per continuare ad amare. Sognare in un modo migliore, in un modo migliore, per la sostanza migliore del mio cuore. Vorrei in tutta questa nebbia del cuore trovare un amore, trovare qualcosa di migliore che mi faccia vivere profondo.